C'è un'iniziativa che stiamo sperimentando con 8 consorzi di tutela, che l'applicazione dell'ologramma di Stato è frutto di un accordo tra il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e il Poligrafico di Stato. Un ologramma di Stato, cioè il marchio della Repubblica Italiana da posizionare su tutte le pezzature dei nostri formaggi, dei nostri prosciutti, nei mercati esteri. Questo sicuramente favorirebbe una battaglia contro la contraffazione, ma ci darebbe anche la straordinaria opportunità di promuovere nei mercati in cui questi prodotti arrivano un ulteriore sostegno al consumatore per avere la certezza che il prodotto che consuma sia prodotto italiano. Questa è una iniziativa a oggi sperimentale e che speriamo possa trovare, superare le difficoltà tecniche applicative e trovare così un'ampia applicazione, perché più ampia è, maggiore ovviamente sarebbero i vantaggi per tutti.